e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. I'm really surprised that you are here. You were fighting for the exit. The British people voted in favor of the exit. Why are you here? In questo diario del post referendum sulla Brexit, la giornata di ieri sicuramente la ricorderemo per le parole pronunciate dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker al leader dell'UKIP Nigel Farage. Mi sorprende vederla qui. Prima ha parlato in francese, dopodiché rivolgendosi a lui si è trasformato un po' proprio come posseduto demoniaco, ha cominciato a parlare in inglese in un'altra lingua dicendogli mi sorprende vederla qui. È l'ultima volta che lei applaude in questo contesto, è un sostenitore della Brexit, siete voluti uscire, il popolo inglese ha votato per la Brexit, perché mai è qui? Vedi che anche lui ha perso il suo aplomb, esatto, che lo contraddistingue. E ti devo dire che un po' mi piace. Infatti, insomma, ecco, ha parlato col cuore, per questo, bravo, che noi abbiamo voluto questo brano. E ci dà un segnale che non sarà tanto facile questo divorzio, no? Direi di no. Un po' come in tutte le coppie. Per cui ci toccherà parlarne ancora a lungo, perché poi questo divorzio è stato traumatico per i mercati finanziari, ma non solo. Se da un lato ci sono i passi della politica, della diplomazia, gli accordi fra i paesi dell'Unione, dall'altro sono da osservare anche le conseguenze della Brexit, che in tempi più o meno brevi andranno a toccare le vite di tante famiglie nel nostro caro vecchio continente. Lo stiamo già facendo da qualche giorno. Oggi continueremo parlando di giovani, studenti attratti dalle opportunità in Gran Bretagna, la generazione Erasmus, insomma. Si vedrà colpita, secondo te, Nicoletta? Effetto lo vedremo. Sì, anche molti degli ascoltatori, ti ricordi, ci avevano già chiamato, esatto, in occasione della puntata che abbiamo fatto con Alberto Pellai. Sì, perché anche i genitori sono un po' preoccupati. E quindi allora, se volete, potete ritornare oggi ad esprimerci le vostre considerazioni all'800240024, ma raccontateci soprattutto se in grande serenità vanno avanti i vostri progetti di far studiare all'estero i vostri figli, se a casa vostra qualcuno è in partenza per Londra o ci stava pensando, raccontateci quali sono i vostri pensieri, le vostre preoccupazioni, ma anche le vostre speranze. Allora, quindi ci occuperemo dei giovani che sono in Erasmus, di quelli che stanno accarezzando l'idea, ma anche di quelli che, perché no, restano a casa, no? E di questi e di tutti i ragazzi ci occuperemo nella seconda parte del programma, dove torna infatti l'appuntamento con Salute Uomo, che come sapete di solito è l'ultimo venerdì del mese, ma anche Salute Uomo la scorsa settimana Deborah ha dovuto, sì, fare conti con la Brexit. È vero. E quindi l'abbiamo spostato. Noi non ci fermiamo, quindi oggi torna il nostro esperto, il professor Andrea Saloni, urologo, andrologo al San Raffaele di Milano, con cui parleremo di giovani uomini. Secondo una ricerca che arriva dall'Università di Copenaghen, a proposito di gioventù, una pubertà anticipata aumenterebbe i rischi di infertilità. Per le mamme italiane, lo sappiamo bene, i figli non sono sempre bambini, facciamo anche fatica a vederli grandi, ma anche loro crescono e tra l'altro, come era stato per le ragazze, hanno il menarca anticipato, i maschi hanno una pubertà che anticipa di qualche anno rispetto alla scorsa generazione. E a proposito di ragazzi che partono, come non cogliere l'occasione per provare a fare le ultime raccomandazioni di rito? Vacanza vuol dire, lo sappiamo bene, autonomia, indipendenza, ma anche trasgressione, e di comportamenti a rischio, come ad esempio rapporti sessuali non protetti, alcol, fumo, uso e abuso di droga. Parliamo nella seconda parte della trasmissione, perché possono minacciare la salute dei nostri figli e anche la loro capacità riproduttiva. E poi un focus a proposito di prevenzione: avrete sicuramente letto che è in arrivo il vaccino nonovalente per il papillomavirus, efficace e sicuro anche per il maschio, quindi un breve sommario per raccontarvi di tutto quello di cui parleremo dopo il tema di denari, che naturalmente presidia il tema Brexit. Esattamente. Intanto partiamo con qualche notizia economica in breve. Partiamo con le borse, perché qua le dobbiamo per forza controllare dopo tutto quello che è successo venerdì e lunedì. Da ieri invece le piazze finanziarie tentano di stemperare un po' l'attenzione, quantomeno di ricomprare tutte quelle società e quei titoli che avevano venduto forse senza troppa ragione, non considerando anche i fondamentali di certe società, essendo preda dei fenomeni speculativi in questi giorni un po' tutti i titoli erano andati a perdere in maniera molto significativa. Allora il recupero di oggi dopo quello di ieri è medie dell'1,65% a Parigi, Francoforte più 1,17, Londra più 1,70, è andata bene l'Asia, stamattina è andata bene anche Wall Street, ieri sera e Milano guadagna l'1,85%, quindi Milano dopo una bio positiva provata ad accelerare è arrivata a guadagnare 2 punti, adesso riduce leggermente ma molto buono, molto ben impostato appunto il trend stamattina. I migliori titoli sono Mediobanca che guadagna 5 punti, Telecom più 4,63, le big bancarie Unicredit più 3,67%, sono ore anche decisive per la designazione del nuovo amministratore delegato del gruppo. Banco Popolare più 3,5 punti insieme ad Intesa San Paolo, più 3 per Tenaris, recupera quasi 3 punti Generali, Snammeret Gas, scissione da Italgas, titolo in rialzo del 2,8%, bene tutte le popolari, Monte dei Paschi più 2,5 punti, attenzione che abbiamo anche qualche titolo negativo, però sono Luxottica e Salvatore Ferragamo, perdono più di 2 punti, Leonardo Finmeccanica meno 1,34, STM meno 0,68%. Ovviamente monitoriamo il tema bancario perché come sapete c'è in discussione questo nuovo maxi piano del governo per ricapitalizzare le banche, per nazionalizzare, non si sa che strada prenderà questa iniziativa che comunque è anche bella incisiva, bella importante, vedremo anche quanto via libera avrà dal consesso europeo, se verrà giudicato titolo di Stato o meno, anche se alla luce delle nuove norme sul bail-in adesso questa formula non dovrebbe più esistere, ma in ogni caso un tema molto interessante da continuare a guardare con grande attenzione. Allora, estate calda per i mercati, è stata calda, cara Nicoletta, anche per le bollette, te la devo dare già questa notizia. Che scottano. No, perché guarda, questo è come al solito, il petrolio quando è tracollato, ovviamente prima che le bollette scendessero ci sono voluti dei mesi, non appena il petrolio ha ripreso a salire, buona notizia perché subito, per i mercati, eccole là che si adeguano, esattamente come fa il prezzo della benzina alla pompa. Allora, terzo trimestre 2016, dopo i ribassi dei primi 2 trimestri dell'anno, dal 1 luglio per la famiglia tipo, le bollette dell'elettricità registreranno un aumento del 4,3%, mentre per il gas l'aggiustamento sarà dell'1,9%. Lo ha reso noto ieri pomeriggio l'autorità dell'energia e del gas, che ha precisato che però nonostante l'adeguamento il risparmio complessivo nei 12 mesi dell'anno rimane di oltre 70 euro. Noi peraltro speriamo che non faccia troppo caldo dal punto di vista meteorologico, perché sennò i condizionatori andranno a manetta e hai voglia qua con le bollette. Volevo segnalare questo articolo che tu sicuramente avrai visto sul Corriere della Sera, perché è una situazione tipica che si verifica anche qua. In ufficio si sfidano le tribù dell'aria condizionata, chi vuole il caldo, chi non sopporta assolutamente l'aria condizionata, chi invece non appena la temperatura sale un po' in ufficio vuole il gelo. Dobbiamo farci una bella puntata prossimamente. Sì, pensavo che proponessi un referendum anche tu. Ecco, esatto, la condizione exit lo chiameremo. Ne parleremo sicuramente perché se Brexit ci dà un po' di tregua torneremo anche ai nostri argomenti tradizionali, faremo il punto sulla manutenzione del condizionatore, come fare per risparmiare eccetera, e tu ti occuperai dell'aria condizionata. E certo, della ci cervicale, ci del raffreddore, le vie respiratorie soprattutto. E anche gli occhi, sono lacrimano esatto. Di più. Esatto. Allora, prima di affrontare l'approfondimento Brexit, ricordo che da oggi con il Sole 24 Ore parte l'iniziativa speciale L'Estate dell'Incertezza, una guida che aiuta a districarsi fra i rischi della Brexit e le ripercussioni nel mondo delle banche, della casa, dei risparmi. Ogni giorno sulle pagine del quotidiano le scelte, le mosse giuste da fare nella vita quotidiana, dando una risposta alle domande degli italiani con gli strumenti e le informazioni più appropriati. Nel numero di oggi tutti i fattori di incertezza che avranno ricadute sulle famiglie, dai tassi alla tenuta del settore bancario. Peraltro percorso che noi stiamo facendo già da settimana scorsa e che oggi naturalmente continuiamo. In un momento come quello che stiamo vivendo, con una generazione che tra l'altro è rappresentata anche al governo, che è una generazione Erasmus, che è la generazione che ha conosciuto il sogno degli Stati Uniti d'Europa come concretezza, che ha conosciuto l'euro come unica moneta o quasi, di fronte a questa generazione noi avvertiamo il bisogno di indicare una prospettiva di futuro. È un grande cavallo di battaglia del Premier, questo della generazione Erasmus, dobbiamo puntare su di loro. Allora, adesso faccio una domanda che non è tanto carina da parte mia. Che cosa facevi nel 1987? Dimmi esattamente anche il giorno, se no devo essere vaga. Quella è mia madre, le sa. Se tu mia madre chiedi che cosa facevi il 13 marzo del 1971, lei te lo assicuro che se lo ricorda, una memoria di ferro su questo. Io la un pochino tua, meno, però nell'87 mi sono trasferita a Milano. Ah, ecco, vedi che vedi, allora c'è un evento importante. Vedi? Un pochino, mi sono mossa anch'io. E allora, per celebrare il tuo trasferimento, hanno ben pensato di far nascere quell'anno anche il progetto Erasmus, quella grande iniziativa che consente agli studenti universitari europei di studiare in un paese dell'Unione per un determinato numero di mesi. Un progetto che ha riscosso e continua a riscuotere un grande successo, che ha consentito nel tempo a milioni di studenti, moltissimi dei quali per la prima volta, di sbarcare all'estero per un'esperienza formativa completa. Tantissimi scelgono l'Inghilterra per questo programma. Nei giorni del post-Brexit sono subito scattate le ipotesi su cosa succederà in questo campo per chi aveva in mente prossimamente di fare un programma formativo a Londra. Nei giorni scorsi il Sole 24 Ore ricordava che Londra oggi ha record di fondi europei conquistati per la ricerca. Tra l'altro, Nicoletta, ne parlavamo proprio ieri anche di questo tema, e rappresenta la meta più gettonata da migliaia di cervelli, oltre che da 150.000 studenti che ogni anno dall'Unione Europea scelgono i prestigiosi atenei d'oltremanica per i loro studi. Almeno 5.000 sono italiani. Diversi atenei inglesi, a partire per esempio dal King's College o dall'Imperial College di Londra, hanno assicurato agli studenti che almeno per i prossimi 2 anni, a causa Brexit, non cambierà nulla dalle tasse ai possibili visti, ma comunque qualche rischio lo corre il progetto Erasmus, con il Regno Unito che potrebbe seguire, si dice, il modello della Svizzera, cioè pagare per far partecipare i propri studenti al programma di mobilità. Allora, noi ci siamo chieste, chissà quante famiglie all'ascolto sono preoccupate di questa eventualità, così abbiamo pensato di proseguire il nostro filone sulle conseguenze del dopo referendum in Inghilterra, parlando proprio di questo. Adesso abbiamo il traffico, però saluto la nostra ospite di questa mattina, che è la dottoressa Sara Pagliai, coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire. Erasmus Plus, buongiorno, grazie di essere con noi. È il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Traffico e poi cominciamo la nostra chiacchierata. Cuore e denari. Erasmus Plus. Welcome to Erasmus Village. If you're a teacher, youth worker or lecturer searching for exciting new possibilities, there might be some professional development, maybe some hands-on experience in your field. Dottoressa Pagliai, ancora buongiorno, lo sente? Buongiorno, lo riconosce? Lo riconosce lo spottino che è andato in onda? Sì, sì, è lo spot ufficiale della Commissione Europea per la promozione del programma Erasmus+. L'abbiamo preso dal vostro sito, quindi possiamo dire Erasmus+, non Plus. Sì, o Erasmus Plus alla latina, ecco, se parliamo in italiano. O italiano latino, esatto. Inglese no. In lingua inglese Erasmus Plus, però io dico quasi sempre Erasmus Plus o più. Più, anche perché i toscani, senti che bella accento, esatto, infatti, per cui io copio lei. Allora, prima di capire quanto e se sia davvero a rischio il modello Erasmus attuale a causa dell'esito referendario inglese, vorrei capire, dottoressa Pagliai, qual è lo spirito dell'attività di Erasmus+, perché qui non si tratta solo di gestire i movimenti in Europa degli studenti che vogliono completare un percorso di studio, perfezionare una lingua, ma qui si tratta, lo dite molto bene sul vostro sito, di farsi carico di quasi 6 milioni di giovani europei disoccupati e di far incrociare le loro competenze con gli oltre 2 milioni di posti di lavoro in Europa vacanti. Quindi è un progetto animato da finalità molto concrete. Sì, Erasmus Plus è un programma molto complesso che riguarda vari settori, quello dell'istruzione, quello della formazione professionale, della gioventù e dello sport, con molte misure all'interno che vanno soprattutto diciamo a favorire la crescita, lo sviluppo della persona in dimensione europea, in un'ottica, questo soprattutto per quello che riguarda i giovani, di una migliore occupabilità, quindi dare delle opportunità di studio e di formazione all'estero e fare in modo appunto che i nostri giovani, i nostri ragazzi abbiano poi la possibilità di sviluppare migliori e nuove competenze che possano essere spese anche meglio nel mercato del lavoro. Ma non è solo questo, infatti, perché comunque è una crescita, ci tengo a dirlo molto, quindi non solo occupabilità, ma una crescita culturale, una crescita di cittadinanza, cioè chi ha fatto Erasmus veramente ha visto concretizzarsi il sogno degli Stati Uniti d'Europa, è così, cioè perché è un percorso concreto e completo di cittadinanza europea. Penso che Erasmus è stato che celebra nel prossimo anno i 30 anni, come giustamente dicevate voi in apertura, ecco, sia stato il fiore all'occhiello dell'Europa e la storia di successo. Una crescita di cittadinanza europea, ci è piaciuto molto questo concetto che ha espresso dottoressa Pagliai, ma come diceva anche il vostro spot ufficiale, l'attività non si rivolge solamente appunto agli studenti. Lo spot diceva if you are a teacher, se sei uno studente, un insegnante, ecco, c'è anche il mondo dei volontari, dei tirocinanti coinvolto in tutto questo grande progetto. In che modo queste altre figure vengono appunto coinvolte? Diciamo, è appunto un programma che abbraccia molti settori, senz'altro non solo quello dell'università, che è quello più famoso, quello che ha anche un sostegno finanziario maggiore, ma ci sono settori tanto importanti come per esempio il mondo della scuola, e Erasmus dentro la scuola permette ad ogni anno a circa 3.000 insegnanti italiani, giusto per dare un dato italiano, di fare formazione in servizio all'estero, quindi di poter sviluppare nuove metodologie di insegnamento, facendo appunto un corso in un altro paese che partecipa al programma, oppure fare un periodo di cosiddetto job shadowing, cioè di affiancamento in un'altra scuola straniera per vedere magari cosa funziona meglio, cosa può essere trasferito nel nostro paese, ma anche che cosa noi possiamo esportare, tra virgolette. Sempre sulla scuola, Erasmus permette appunto a scuole di lavorare insieme, quindi ai ragazzi di ogni scuola di partecipare ad incontri con altri ragazzi, magari non ovviamente per periodi lunghi come gli studenti universitari, ma comunque diciamo già da piccoli poter vedere che esiste una realtà diversa da quella della propria scuola, del proprio paesino, della propria regione. Quindi... Allora, sì, no, stavo intanto guardando le telefonate e me le segnalava anche Nicoletta, adesso subito cominciamo ad interagire con i nostri ascoltatori. Sì, perché con Deborah ci parliamo ormai con gli occhi, sguardi, no? Facciamo segnali di fumo. No, volevo ricordare che domani il Sole 24 Ore si occuperà, nell'ambito di questo percorso Brexit iniziato appunto con questa speciale estate, si occuperà anche di questo argomento, per cui Mauro Meazza, che noi salutiamo, del Sole 24 Ore, mi ha chiesto, cerca di monitorare molto attentamente le telefonate che arrivano dalle famiglie, perché magari domani le richiamiamo anche per il Sole 24 Ore per cercare di avere un quadro preciso su tutte le domande che si fanno in questo momento proprio le famiglie italiane in ballo con questa discussione nel proprio ambito. Quindi siete invitati a dare il vostro contributo. A proposito del tema della crescita di cittadinanza europea e dello spirito con cui si muove l'attività di Erasmus e Erasmus+, sentirei subito Gualtiero da Novara per poi andare a continuare la nostra chiacchierata con la dottoressa Pagliai, perché vogliamo conoscere la dote finanziaria di tutto il progetto, quanta parte è destinata all'Italia, come l'Italia usa questo denaro, e poi andremo alle domande proprio molto concrete su Erasmus, come si fa ad avere questa che possiamo chiamare borsa di studio, che caratteristiche deve avere un giovane che vuole fare questo percorso di crescita europeo. Ne parleremo, intanto sentiamo subito Gualtiero da Novara, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Sì, ci dica. Ho cercato di intervenire perché lo spirito di Erasmus è qualcosa che mi muove il mio pensare attuale, cioè io ci sto lavorando sopra. Da quando sento parlare di Erasmus, il fatto stesso che partecipino i paesi del Nord Africa e che non viene citato, è una situazione che mi porta... stiamo facendo qualcosa per mettere insieme le forze tra Novara e Vercelli, in modo che questo cerchiamo di fare sì che quanto è successo oggi in Inghilterra, cioè i giorni fa che hanno votato, non riguarda per niente, non riguarda lo spirito di Erasmus. Erasmus c'era prima e ci sarà sempre, perché è aperto a tutti i paesi che hanno aderito dall'inizio a questo progetto, che sarebbero nordafricane e i primi di tutti in Marocco, poi ci sono altri paesi come il Libano, che va rivisto sul piano geografico, perché se si vogliono risolvere i problemi del Mediterraneo, Libia, Siria stessa, Turchia adesso, non ci si può discostare. Certo, allora Gualtiero, lei ci apre una discussione molto più impegnativa e naturalmente la ringrazio moltissimo per le sue riflessioni. Dobbiamo però un attimino circoscrivere il nostro raggio d'azione questa mattina, mantenendola alle famiglie che in questo momento sono in ballo, come dicevo prima, con delle scelte concrete. Detto questo, sullo spirito complessivo di tutta l'iniziativa ci siamo già soffermati a lungo, appunto, con la dottoressa Pagliai all'inizio, che se vuole può intervenire commentando le considerazioni di Gualtiero. Dottoressa. Vorrei intervenire su questo. Sì. In realtà diciamo Erasmus è non solo paese dell'Unione Europea, ma anche altri paesi che sono extra-Unione e che hanno accordi diversi, come Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Turchia, purtroppo in questo momento triste per quanto è accaduto questa notte a Istanbul. Ci sono anche molti ragazzi Erasmus che stanno studiando nelle università turche. E per il settore dell'università vorrei dire che dal 2015 Erasmus è aperto anche ai paesi extra UE, quindi al resto del mondo, soltanto per il settore università, ma già questo è possibile, giusto per sottolineare che lo spirito Erasmus è ovviamente europeocentrico, però un'Europa che si apre al mondo. Allora, qual è la dote finanziaria di tutto il progetto, dottoressa Pagliai, e in che parte questa è destinata all'Italia? Allora, la dote finanziaria che è stabilita, diciamo, dal regolamento europeo per il 2014-2020 in tutta Europa sono circa 14 miliardi di euro. Poi ogni anno, diciamo, c'è una distribuzione per paesi e una distribuzione annuale. Per il 2016 in Italia abbiamo avuto una dote finanziaria di circa 140 milioni di euro. Bisogna tenere conto che in Italia siamo tre agenzie che gestiscono il programma Erasmus. Io lavoro ad Indire, Indire gestisce la parte più, la fetta più grossa, cioè che è l'università, la scuola e il mondo dell'educazione degli adulti, per un budget che quest'anno è circa di 90 milioni di euro. Allora ci fermiamo, il prossimo anno. Benissimo. Allora ci fermiamo perché adesso abbiamo il giornale radio, dottoressa Pagliai, chiedo solo qualche minuto di pazienza, torno a convocare gli ascoltatori all'800 24 00 24, a tra pochissimo. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. assicom.com. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Cuore e denari. Beh, questa ormai diventa la nostra colonna sonora di questa estate calda a causa del referendum Brexit, London Calling. Chissà quanti giovani da tutte le parti d'Europa sono stati richiamati, attratti dal fascino di Londra, magari per poter trascorrere uno dei tanti programmi Erasmus organizzati appunto nella capitale londinese. Allora di Erasmus stiamo parlando questa mattina per capire se un po' i piani attuali vengono compromessi o ci sono pericoli che vengano compromessi appunto a causa dell'esito di questo referendum di settimana scorsa. 800 24 00 24, ho chiesto agli ascoltatori in particolar modo questa mattina di intervenire in tanti e volevo sapere da voi se in casa vostra si stava parlando ultimamente di Erasmus, è in cantiere l'idea di trascorrere per i vostri figli un periodo nel Regno Unito, magari a Londra, o di iscriversi in università britannica. Adesso le vostre idee stanno cambiando, a cosa vi ha spaventato in particolare dal punto di vista anche economico? Sapete se potevate contare su borse o finanziamenti europei che adesso non vi sembrano più tanto così sicuri? Insomma, stiamo cercando di ipotizzare degli scenari possibili con la nostra ospite di questa mattina, che è la dottoressa Sara Pagliai, coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus più Indire. Abbiamo già spiegato e ribadito all'inizio del programma tutto lo spirito che muove il programma Erasmus. Adesso, dottoressa Pagliai, è ora di andare un po', come dicevo prima, alla ciccia. Brexit mette a rischio questo impianto che sulla base di quanto ci ha spiegato lei prima, ci sembra molto ben consolidato e funzionante. Sappiamo che richiederà ancora molto tempo e molto interventismo da parte della politica, ma che timori avete, se ne avete, o se si stanno manifestando appunto fra i soggetti che si rivolgono a voi per i bandi, per partecipare alle iniziative internazionali che coordinate? Sì, innanzitutto vorrei dire che non c'è un automatismo tra Brexit e uscita dal programma Erasmus, in primis perché ovviamente Erasmus, come del resto molte altre questioni, iniziative, dovranno essere ricontrattate e rinegoziate. Questo è previsto appunto dai trattati internazionali e dal Trattato di Lisbona, il famoso articolo 50 che adesso viene tanto citato. Quindi per il momento il Regno Unito, fino a che non saranno definitive tutte le contrattazioni, è un paese dell'Unione Europea, quindi non c'è una sospensione dei fondi fino a quel momento, cioè le cose per questo anno e per il prossimo restano assolutamente uguali, quindi chi in questo momento si trova in un percorso Erasmus nel Regno Unito o pensa di farlo a breve, ecco, non c'è questo automatismo, per cui si può stare tranquilli. Detto ciò, come dicevo in apertura, appunto il programma è molto consolidato ed è anche molto flessibile, per cui non partecipano soltanto i paesi dell'Unione Europea, partecipano anche paesi che sono extra UE, e per il settore universitario addirittura dal 2015 Erasmus è aperto al resto del mondo. Chiaramente diciamo sarà diverso il finanziamento che l'Unione Europea darà su questo programma al Regno Unito, perché ovviamente i paesi dell'Unione ricevono dei finanziamenti che sono più sostanziosi di chi ci partecipa come paese partner o paese non aderente all'Unione Europea. Però quello che mi preme dire in questa sede è che senz'altro lo spirito di Erasmus sopravviverà anche alla Brexit, di questo sono piuttosto certa, e non è solo frutto del mio ottimismo. Poggiamo naturalmente sulla forza di volontà dei giovani, che non intendono, sì, immagino, certamente perdere questa sì, risorsa che hanno. Quindi in ogni caso, quello che vale anche la pena ribadire, dottoressa Paglia, è che su tutte queste ricadute concrete possibili stiamo ancora viaggiando nel mondo delle ipotesi, no? Perché esatto, non sappiamo nulla. Esatto. Allora, quello che sì, mi sento di dire è che senz'altro forse quello in questo momento, questa esperienza che stiamo vivendo dovuta alla Brexit deve far riflettere anche per i programmi di future generazioni. Forse ci vuole davvero più Erasmus, più possibilità concrete di mobilità per le persone, perché è veramente attraverso questi percorsi concreti di cittadinanza che si può capire veramente che l'Europa è la nostra casa comune, altrimenti tutto rimane un discorso molto teorico, affidato, infatti, ad una politica che forse ha anche un po' perso il contatto con la realtà e con i propri cittadini. Anzi, forse vale la pena non enfatizzare eccessivamente le conseguenze negative su Erasmus, o solamente limitarci a come dire, ipotizzare, perché non vorrei proprio, anche a causa di questo atteggiamento di enfatizzazione, come dicevo, di aspetti negativi, sminuire un po' anche questi percorsi che i ragazzi invece intendono fare. Invece incoraggiamoli anzi ad insistere su queste iniziative. Dall'inizio del programma, dal 1987 fino ad oggi, sì, giovani complessivamente coinvolti a livello europeo da Erasmus hanno superato i 3,5 milioni. Esatto. L'Italia ha contribuito a questo record per il 10%, sì, e questo dato posiziona il nostro paese fra i 4 stati principali per studenti in partenza verso destinazioni europee, dopo Spagna, Germania e Francia. Se si guarda invece all'accoglienza, il nostro paese è al 5° posto, poco dopo Spagna, Germania, Francia e Regno Unito, con circa 20.000 studenti europei ospitati nelle nostre, esatto, università. Ma, dottoressa Pagliai, guardiamo lo studente italiano e la famiglia italiana che in questo momento è interessata a poter far partecipare ad uno di questi programmi, appunto, i propri figli. Come funziona la procedura per ottenere le borse di studio per fare tutto ciò? Che importi hanno? Che requisiti bisogna avere per fare richiesta? Allora, ogni autunno, generalmente verso il mese di ottobre, la Commissione europea pubblica un bando. Dentro il bando europeo ci sono le scadenze. Le scorse scadenze per il 2016 sono state febbraio e marzo, febbraio per la mobilità e marzo per i progetti, per i partenariati. E dopodiché, se si è uno studente universitario, quindi una famiglia, ci si deve rivolgere direttamente alla propria università e al proprio ufficio Erasmus, perché l'Agenzia Nazionale ha contatti diretti con le istituzioni, cioè con le università. Quindi le università fanno domanda a noi per ricevere i fondi e poi al singolo studente che accede al bando della propria università per poter partire. Per quanto riguarda la scuola, invece, sono le scuole che direttamente fanno domanda a noi e quindi se una scuola vuole partecipare a Erasmus ha la possibilità di mandare informazione, quindi far fare mobilità al proprio staff, quindi docenti, dirigenti scolastici, ma anche personale amministrativo, oppure può far fare progetti alle scuole e muovere anche i ragazzi. Su questo l'Agenzia Nazionale fa un lavoro di consulenza e di supporto alla progettazione, perché questa è una delle nostre principali mission, tra virgolette, per cui siamo a supporto di tutti coloro che vogliono provarci e che vogliono entrare in questo circuito per poter appunto vivere davvero un'esperienza, certo, che sia un'esperienza europea. Quanto concreta. Tempo si può star fuori? Allora, le borse di studio, quelle degli studenti Erasmus, vanno da 3 mesi fino a tutto l'anno accademico, quindi da 3 a 8 mesi. Se invece diciamo si è un insegnante di una scuola, la mobilità per formazione docente va da 1 settimana fino a 2 mesi volendo. I progetti invece, i progetti tra scuole possono durare 2-3 anni, lì dentro le scuole lavoreranno a distanza, però poi avranno opportunità di incontro, quindi incontri di progetti, scambio di docenti oppure scambio di classi, quindi il programma è molto articolato. Io ricordo che le agenzie nazionali, in particolare noi in Dire, siamo a disposizione di tutta l'utenza per supportare la progettazione. Abbiamo un sito che è il sito comune erasmusplus.it, lì dentro ci sono tutte le informazioni, gli approfondimenti e che cosa Erasmus può offrire. Certo. Le borse di studio, leggevo, dottoressa Pagliai, che non hanno importi standard ma vengono in genere calibrate anche sul costo della vita dei paesi ospitanti. Esatto, diciamo la borsa è una borsa che in media va da 230 a 280 euro mensili, poi per quanto riguarda l'università, alcune università integrano la borsa con fondi propri o con fondi regionali. In più, sul settore universitario, anche il Ministero dell'Istruzione cofinanzia le borse degli studenti. Mentre, diciamo, se si fa, perché parliamo quasi sempre di mobilità per studio, ma c'è anche mobilità per tirocinio, quindi studenti delle università che possono andare a fare tirocinio in impresa. In quel caso una borsa ha un importo che si aggira intorno ai 500 euro in media. Le faccio ascoltare la domanda di Franco da Treviso, sulla quale ci salutiamo, ma magari se sarà necessario su questi temi ci torneremo presto. Franco deve essere telegrafico, buongiorno. Guardi, sarò velocissimo. Grazie. Mio figlio, che si diploma quest'anno al liceo scientifico, vorrebbe andare a studiare a Londra. Sì. Ha già visualizzato 2 università, una è la City of London, l'altra è la Metropolitan. La mia domanda è questa: volevo sapere se il corso universitario può essere finanziato ancora dalla comunità europea. Grazie Franco. Dottoressa Pagliai, immaginiamo che la domanda di Franco possa rappresentare un po'. Niente cambia per quello che dicevo prima, perché dovranno essere terminati tutti i negoziati e fino a quel momento il Regno Unito è un membro dell'Unione Europea, quindi fino alla fine delle negoziazioni niente cambia, quindi il prossimo anno ancora siamo in piena fase di negoziazione. In questo momento a Bruxelles sul programma Erasmus si stanno decidendo, i vari stati membri stanno decidendo e approvando il piano della Commissione Europea su Erasmus, che prevede i finanziamenti che vanno ad ogni paese. Non cambierà nulla per il 2017, perché, torna a dire, ancora siamo in fase di negoziazione. Quindi, Franco, e se anche qualcosina dovesse cambiare, magari ci metta qualcosa lei dentro per consentire lo stesso a suo figlio di fare questa esperienza internazionale, perché adesso è fondamentale per le generazioni attuali. Dottoressa Pagliai, la ringrazio moltissimo per la disponibilità e la chiarezza. Grazie a voi. Torneremo a coinvolgerla magari prossimamente, esatto, perché ci piace molto questo approccio, questo sostegno molto concreto anche per le famiglie che hanno voglia di dare questa opportunità ai figli. Grazie. Grazie, Nicoletta. Vedi, Deborah, sono, per noi sono sempre dei bambini, poi improvvisamente ti guardi esatto. E dici: ma questo è un uomo. Chi è questo? Ecco, e partono. Esatto. Questo estraneo che vive a casa mia con me. Non partono, naturalmente, sono i ragazzi, anche le ragazze, ma noi oggi ci occupiamo in modo particolare dei ragazzi, perché torna il nostro appuntamento con Salute Uomo e ci ricolleghiamo naturalmente al tema della prima parte di Cuore Denari, perché i ragazzi crescono e partono, chi per vacanza, chi per studio, chi per tirocinio, come sottolineava la tua ospite, è giusto, è normale, anche perché i ragazzi sempre di più si sentono europei e partono con tutte le difficoltà del caso e anche con tutte le raccomandazioni dei genitori. Di questo parleremo nel nostro approfondimento di Salute Uomo. Sì, viaggiare. E in viaggio anche Andrea Salonia. Ciao Andrea, urologo andrologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute di San Raffaele di Milano, il nostro direttore scientifico di Salute Uomo, ma noi lo raggiungiamo ovunque. Ciao Andrea. Eccoci. Ciao Nicoletta, ciao Deborah. Buongiorno. Allora, buona giornata. Andrea, tu hai fatto l'Erasmus, soggiorni all'estero per studi, i tirocini? Dimmi. Allora, io non ho fatto l'Erasmus, le mie esperienze all'estero sono cominciate nell'estate del liceo, quando i miei genitori avevano deciso che potesse essere utile andare a imparare l'inglese, e la prima in assoluto per me è una, vi ricordo, secondo me incancellabile, perché fu nel 1986, c'era stata Chernobyl, che tutti riconoscerete, e in quell'occasione io mi trovavo in Scozia per la mia prima estate di approfondimento dell'inglese e non potei mangiare mai verdura per tutto il periodo di soggiorno, per cui questo me lo ricordo molto bene. Poi da lì è stato un susseguirsi, sono stato è diventato in un po' volte. Come la strada dell'orto per te. Esatto, come si dice a proposito di verdura. Durante l'università non ho fatto esperienze specifiche come l'Erasmus. Il corso di laurea in medicina è un po' diverso dagli altri, se posso permettermi di dire, perché è articolato in modo diverso ed è meno facile andare all'estero, sebbene sia molto utile. Oggi le cose stanno un po' cambiando. Le esperienze maggiori i medici o i neomedici le fanno nel periodo della scuola di specializzazione, che è successivo all'acquisizione della laurea e che è, se vogliamo dire, il periodo di formazione più importante, perché è il periodo di professionalizzazione. Ed è anche in quel periodo che io ho sviluppato il mio percorso all'estero. Io mi ricordo andai a Boston una prima parte e più recentemente, dopo varie altre peripezie, sono stato a lavorare a Londra. Vedi, allora intanto invitiamo i nostri ascoltatori a raccontarci che vita interessante che ha fatto questo e come si sono formati e che cosa stanno proponendo ai loro figli. Ma intanto di questo parleremo proprio nell'approfondimento di Salute Uomo, perché la Brexit, come abbiamo anticipato, ha fatto saltare il nostro appuntamento venerdì, ubi maior minor cessat, ma recuperiamo la nostra puntata e oggi ci vogliamo occupare proprio dei giovani uomini, dei nostri ragazzi che crescono e partono. Tra l'altro siamo in un periodo dell'anno in cui i ragazzi fanno le valigie, esatto, per vacanza, per raggiungere gli amici, per una vacanza studio, e allora noi cercheremo di fare alcune raccomandazioni, delle raccomandazioni naturalmente che non vogliamo dare con il tono della predica, ma anche per, così tanto le farete anche voi e i vostri figli, forse avete provato a farle, come hanno risposto, perché lo sappiamo che quando il ragazzo va fuori di casa è un po' un'occasione per fare le prove di volo e quindi ci sono nuove esperienze, anche perché no, anche un po' di voglia di trasgressione. Andrea, scusami, ma volevo tornare un attimo alla tua esperienza e soprattutto chiederti, tu sei un medico, fa ricerca, sei direttore dell'URI, Istituto di Ricerca Urologica, secondo te Che ripercussioni può avere la Brexit sulla ricerca? Perché qualche giorno prima del referendum su Nature era apparso un articolo che illustrava i vantaggi e le opportunità che l'Europa Unita aveva offerta alla ricerca: libertà di movimento per i medici tra i paesi dell'Unione, grant per i ricercatori, collaborazioni fra i vari centri, no? Che facevano per progetti internazionali. Adesso dovremmo fare i conti con, anche se non nell'immediato, però con un'Europa diversa, anche sul fronte della ricerca. Ci penalizzerà questo? È una giustissima osservazione. Secondo me Nature, che è tra le riviste una delle più importanti, perché è espressione della scienza allo stato puro, e dei ricercatori, e vorrei sottolineare dei ricercatori internazionali, perché benché di editore inglese, fondamentalmente è espressione della ricerca internazionale, ed è proprio su quello che Nature ha puntato, sul fatto che la collaborazione internazionale possa essere il punto chiave per far progredire la ricerca, non solo in termini economici, perché tutti i programmi europei della Comunità Europea votati al promuovere la ricerca partivano dalla considerazione che esistesse tra, e lo fanno ancora ovviamente, che esistesse però tra nazioni una sorta di agreement, una sorta di collaborazione, tale per cui ciascuna delle nazioni potesse partecipare in quelli che sono poi dei consorzi di ricercatori, ciascuno dei quali avrebbe ricevuto una quota parte del grant, e quindi dei fondi, e quindi dei soldi, senza i quali purtroppo la ricerca non si fa. Il secondo elemento importante è uno scambio di tipo culturale, quello che abbiamo imparato nel fare ricerca negli ultimi, vorrei dire, 100 anni e più, è che senza colloquiare, senza discutere, senza confrontarsi con gli altri non si fa ricerca, perché non c'è modo di progredire. Se dovessimo tornare all'ambito dei giovani, tanto più giovani e fresche sono le menti, tanto è più probabile che si riesca in un modo o nell'altro a fare ricerca. In questo caso uno scambio culturale internazionale non può che facilitare. Oggi io non penso che di colpo sarà tutto un evento on-off per cui si spenga la ricerca internazionale europea, perché la Brexit ha fatto sì che l'Unione, che United Kingdom decida di uscire. Però certo il rischio che si possano avere delle difficoltà e che si incontrino dei paletti maggiori esiste anche nel mondo della ricerca. Vedi, quindi siamo andati anche così ad aprire una finestrella sulle conseguenze della Brexit sulla ricerca. Sì. A proposito di ricerca, Andrea, mettiamoci al lavoro prima di passare la linea a Deborah per l'aggiornamento ai mercati. Iniziamo da commentare una ricerca che sono certa interesserà i genitori all'ascolto. Negli ultimi anni infatti si assiste a un anticipo della pubertà. Sì. Il fenomeno non riguarda più solo le bambine ma anche i maschietti, quindi queste senza dubbio un'occasione per affrontare un tema che solitamente viene un po' evitato. Perché? Perché si è più restii a parlare dello sviluppo sessuale nel maschio. Invece questa è una mentalità che, come ripetiamo tante volte dai microfoni di Cuore Denari in occasione di Salute Uomo, dovrebbe essere superata, e perché è importante controllare come la crescita nei maschietti proceda e se è corretta. A differenza delle ragazze, Andrea, che sembrano improvvisamente delle vere piccole donne, con un accenno di seno, i fianchi si arrotondano, il corpo diventa in generale più armonioso, nei ragazzini i segni della pubertà sembrano meno visibili, più nascosti, ma è importante che i genitori sappiano riconoscerli. Andrea? Sì, è assolutamente così. Questa ricerca che fa riferimento proprio a questa anticipazione del percorso di sviluppo puberale è, a mio avviso, estremamente interessante. Da un punto di vista tecnico, normalmente la pubertà di un ragazzino compare tra gli 11 e i 13 anni. Si definisce anticipata quella che compaia dopo i 9 anni e si definisce precoce quella che compare addirittura prima dei 9 anni. Ma in che cosa consiste in realtà? Nella manifestazione di tutti quei segni che col tempo verranno chiamati caratteri sessuali secondari, che partono da un ingrossamento del testicolo, la comparsa della peluria sul labbro superiore, la comparsa della peluria nel cavo ascellare, quella a livello pubico. Il problema più eclatante è che generalmente una pubertà anticipata si manifesta con un accrescimento importante dell'altezza dei nostri ragazzi, che tuttavia si porta poi a determinare un'altezza finale minore, perché c'è una saldatura di quelle che si chiamano epifisi, che sono della parte ovviamente dell'osso, quello più giovane, che saldandosi più precocemente purtroppo porterà ad un'altezza finale inferiore. Quindi quello che all'inizio ci può sembrare addirittura un esuberante percorso di crescita, con una pubertà anticipata viene ad essere purtroppo un neo. Ci sono tante cause per questo, sì. Generalmente la pubertà è caratterizzata da quello che si chiama spermarca, è un termine molto scientifico ma che dice in pratica i ragazzi attorno agli 11-13 anni sono capaci di produrre spermatozoi e in teoria di diventare papà, ed è quello che dobbiamo tornare a sottolineare rispetto a quanto tu dicevi prima, cioè l'estate che è il tempo di esplorazione e quant'altro. Alcuni mesi fa uno dei nostri editoriali di Salute Uomo parlava proprio della mia esperienza. Io ricordo quando la prima volta che andai in Inghilterra per la mia estate studio, avevo circa 14 anni, mio padre mi spiegò che cosa fosse il profilattico, banalmente, ecco. Ma allo stesso tempo dato questo importantissimo. E insomma loro partono, tra poco andremo a vedere che cosa stanno facendo i mercati, i ragazzi partono e noi proviamo a fare delle raccomandazioni ai nostri ragazzi. Voi lo avete fatto, lo state facendo, chi dei due, papà o mamma, inizia a rompere il ghiaccio? Chiamate, perché ne parleremo subito dopo i mercati, per raccogliere idee, concetti, trovare anche le parole per parlare ai nostri figli di prevenzione. Mercati a tra poco. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta. Cuore e denari. Allora, Deborah parte, sarebbe pronta per l'Erasmus. Intanto anche lei. Che tu ti occupi di Andrea Salonia, io me la ballo. Fai bene. Beh, a proposito, sì. I ragazzi oggi di Coucher se ne intendono parecchio, perché oggi per loro il sesso non è più un tabù, del sesso conoscono almeno in teoria tutto, perché la rete è una grande maestra e tendenzialmente vivono il sesso senza profonde implicazioni sentimentali. È un'occasione per conoscere, per conoscersi, per piacersi di più e, perché no, per piacere anche di più agli altri. Questa è una breve e parzialissima sintesi dei risultati di un bellissimo studio dell'Università Cattolica di Milano, che ha voluto fare il punto adolescenti, relazioni sentimentali e sessualità. Allora, in questa puntata di Salute Uomo abbiamo pensato, dato che volevamo fare le raccomandazioni ai ragazzi prima di partire e vorremmo fare le raccomandazioni adeguate con l'aiuto di Andrea Salonia per aiutare i ragazzi a promuovere la loro salute, a proteggersi, perché Andrea, di questo vogliamo parlare. Andrea? Sì, mi sentite? No? Sì, ti abbiamo un attimo perso. Volevamo... No, è fondamentale cercare, ecco, di fare prevenzione dei danni, assolutamente fondamentale. Ecco, è giusto che i ragazzi crescano, che abbiano le loro esperienze sessuali, sentimentali, che si muovano nel gruppo dei pari, però devono essere informati. Hanno tante informazioni, ma forse sono molto giovani. Allora, vogliamo fare il punto della situazione e abbiamo il piacere di avere con noi la professoressa Emanuela Confalonieri, docente di psicologia dell'adolescenza e dello sviluppo all'Università Cattolica, che ha curato la ricerca. Buongiorno professoressa Confalonieri e benvenuta a Cuore Denari. Grazie mille, buongiorno a tutti. Allora, faccia un po' la spia, ci racconti che cosa dicono e cosa pensano i nostri ragazzi. Sì, un po' come molto sinteticamente ha anticipato lei, noi abbiamo incontrato parecchi adolescenti, li abbiamo anche, diciamo, sentiti proprio dal vivo, quindi con questi focus group. Quello che emerge sono sicuramente dei ragazzi molto precoci o più precoci rispetto a quanto non avveniva anche solo 20 anni fa, per cui ragazzi che accanto ad uno sviluppo puberale, forse anche come parziale conseguenza di sviluppo puberale sia al maschile che al femminile anticipato, conoscono e si avvicinano alla sessualità sicuramente prima appunto di quanto non avveniva fino a qualche tempo fa. E questo lo fanno in parte con un buon bagaglio conoscitivo, almeno a parole, sia sulla contraccezione, sia sui potenziali rischi dalle malattie sessualmente trasmissibili alle gravidanze che si incorre laddove non venga fatta o utilizzata in modo consapevole e responsabile la contraccezione. Quello che però anche emerge è che in realtà spesso accanto a questa conoscenza non c'è un altrettanto corrispondente assunzione di responsabilità e consapevolezza fino in fondo di quello che effettivamente poi vuole dire essere sessualmente maturi e adulti, e quindi avventurarsi in esperienze dove, accanto alla dimensione affettiva, che spesso però è un po' relegata sullo sfondo, i ragazzi vivono soprattutto inizialmente la dimensione della sessualità. Ecco, allora leggo subito il messaggio di un ascoltatore che è dispiaciuto se si banalizzano i sentimenti dei giovani rispetto all'atto sessuale. Non mi sembra che abbiamo dato questa sfumatura, però, professoressa Confalonieri, è anche vero che almeno dalla vostra indagine emerge che non tutti i ragazzi vivono il sesso all'inizio, le prime esperienze, con delle profonde implicazioni sentimentali. Sì, esatto, è sempre rischioso generalizzare, intendiamoci, però effettivamente loro per primi attribuiscono proprio un valore, che è un valore comunque di sperimentazione, dove si mettono un po' al primo posto, quindi nella relazione la cosa importante, parlo di ragazzi anche giovani, quindi in piena adolescenza, 14, certo, 15, 16 anni, è come vivo io, quello che mi porto a casa dalla relazione, dove quindi l'implicazione con l'altro o per l'altro non è quella della relazione adulta, per intenderci. Quindi non riescono ancora, non hanno l'età, la maturità per pensare a coppia, ecco. Non tutti. Però c'è anche, diciamo, per il nostro ascoltatore che giustamente ci dà questo spunto, perché le parole vanno calibrate, ci sono tante sfumature, c'è anche questa possibilità. Professoressa, lei che insegna psicologia dello sviluppo e dell'adolescenza potrebbe sicuramente spiegarci le ragioni che spingono un ragazzo a fare solitamente l'opposto di quello che gli si dice, no? E se no, che mestiere, cioè fa il suo mestiere, no? Certo. O a fare finta, contrario. Bravo, e d'altra parte noi facciamo i genitori e loro fanno i ragazzi, a ciascuno la sua parte. Ci sono anche qui delle eccezioni, sto estremizzando, ma chi è genitore lo sa che non è facile trovare le parole giuste, i tempi giusti, basta poco e la Claire si abbassa e diventano molto distanti. Professoressa, come si può dare delle raccomandazioni senza che i nostri ragazzi spengano, no, il volume e facciano altro? Allora, in generale questo è l'atteggiamento, ma come ha detto lei è anche il loro mestiere, il nostro è provare comunque ad esserci anche se sembra che ci vogliano escludere. Questo è sempre stato così, certo, quindi non è una novità e questo da un certo punto di vista ci deve rassicurare. Allora, io credo che appunto se arrivi ad avere dei figli adolescenti, ma questi stessi ragazzi sono stati nostri figli anche prima, quindi il canale comunicativo, la possibilità di aver loro parlato, di far sapere loro che con noi di certe cose possono parlare, perché sono temi, quella della sessualità è un tema su cui peraltro l'adulto genitore fa anche fatica lui per primo, ma comunque sono temi su cui c'è la disponibilità a parlare sempre e comunque, ecco, questo è comunque sempre una buona base. L'importante è far sapere loro che non saranno giudicati, che non saranno valutati, che quindi certo noi possiamo proporre quella che è la nostra posizione, quello che è la nostra idea, ma dall'altra parte in prima battuta c'è sempre da far capire loro che la cosa importante è che loro si raccontino. Poi quello che stanno vivendo è comunque per loro importante ed è di valore e quindi nessuno glielo valuterà, nessuno glielo giudicherà. Nello stesso tempo, come adulti non dobbiamo perdere il ruolo di dire la nostra in qualche modo. La cosa importante è non perdere mai di vista che ciò che loro fanno, anche se a noi può sembrare solo rischioso, solo scarsamente dotato di significato, per loro sono invece comportamenti che nel loro momento della loro vita, in quel momento della loro vita, hanno comunque invece un significato, rispondono ad un bisogno di crescita e di ricerca identitaria che per loro è significativo. Quindi l'importante è non stigmatizzare, non valutare come qualcosa di sbagliato ciò che stanno facendo, ma cercare di mettersi dal loro punto di vista, di vederla come la vedono loro e comunque anche dire ok, per te è questa cosa qua, vediamo se c'è anche un significato altro però. Mi sembra. E poi un altro aspetto, professoressa Confalonieri, può essere quello di, invece di tanti divieti, metterle in positivo, cioè promuovere la salute invece che vietare delle... Esatto. Anche perché nel tempo si è visto come tutti quegli interventi più di prevenzione fatti in modo anche spettacolare, un po' terroristico, in realtà non dissuadono più di tanto e anzi sì, hanno un effetto a volte immediato, in un tempo breve, ma poi a lungo termine non hanno un effetto. Cioè l'importante è più importante forse sin da subito, sin da piccoli, far passare loro l'importanza di volersi bene non soltanto alle parti interne più psichiche, più mentali, emotive, ma anche a quelle esterne, quindi al proprio corpo. Esatto. E quindi volersi bene vuol dire poi essere più attenti anche a ciò che si fa più da grandi, più da adolescenti, e poi sì, sperare che tutto quello che si è costruito prima qualche cosa abbia attecchito, perché comunque il momento della sperimentazione c'è. Ecco, siamo magari un po' disorientati di fronte ai comportamenti e ai cambiamenti spesso repentini dei nostri figli, ma professoressa Confalonieri, lei ha sottolineato un aspetto: sono stati figli nostri anche prima e sicuramente poi è un momento e poi si riassesta e va avanti. Anche il momento che noi possiamo leggere come crisi sarà poi metabolizzato e ci sarà un passo avanti. Intanto che la saluto, voglio leggere un messaggio, un WhatsApp che ci arriva da un ascoltatore che ci sta ascoltando con suo figlio dodicenne e ci dice: penso che sia utile. Grazie professoressa Confalonieri per essere stata con noi. Grazie a voi, buon proseguimento. Buona giornata. Allora, grazie Andrea. Promuovere la salute e dare spazio alla parola, questo è un po' il segreto per fare centro, ma è fondamentale. C'è una cosa che dobbiamo sapere anche noi genitori, è che le malattie sessualmente trasmesse non sono scomparse e i giovani non possono avere la consapevolezza del rischio se non siamo noi a spiegarglielo, sempre con l'idea del promuovere la salute, perché quello dei nuovi contagi è un problema che diventa giorno dopo giorno sempre più grave. Allora, sempre di più. Vero. Allora, noi sì. Adesso ci fermiamo un attimo, informazioni sul traffico e poi passiamo adesso la parola ad Andrea Salonia, perché vorremmo che tu ci aiutassi, utilizzando l'approccio suggerito dalla professoressa Confalonieri, ad aiutarci a capire quali sono i messaggi che tu come medico, che promuovi la salute, la prevenzione, vorresti arrivassi ad un ragazzo, e noi naturalmente come genitori possiamo riportarglieli, e poi parleremo anche dei segnali sospetti che ogni ragazzo deve imparare a conoscere per non trascurare la sua salute. A tra poco. Cuore e denari. E siamo ritornati insieme. Raccomandazioni e consigli ai ragazzi che stanno per partire. A volte non è facile. Intanto ci state scrivendo al 349-238-6666. Arrivano numerosi WhatsApp, testimonianze di genitori che ci raccontano i messaggi che danno ai loro figli. Ne leggo uno che mi è piaciuto in modo particolare. I ragazzi devono capire per prima cosa che per fare sesso la ragazza deve essere consenziente. Ecco. Anch'io. Mannaggia, questo microfono. È Carmelo microfono. Che ti toglie la linea. Esatto. Questo è un messaggio, veramente questo è uno dei sì. tanti messaggi che stanno arrivando, ma che ci piace leggere perché naturalmente io penso... Perché è di enorme attualità, se posso dire, Nicoletta. Certo. È un messaggio dirompente, ma allo stesso tempo sembra così ovvio che forse ricordarlo non è mai così ovvio, al contrario. Perché quello è un dato di certezza, ce l'hanno raccontato le cronache di questi giorni con quelle violenze perpetrate ad una sedicenne che, poveretta, ignara, è stata malmenata oltre che violentata ripetutamente da un branco di ragazzi non tanto più vecchi di lei, purtroppo, e questa è la cosa più triste. Allora Andrea, ci sono queste notizie che ci fanno capire quanto è l'informazione, l'educazione, non è mai abbastanza e non si riesce mai ad arrivare fino in fondo, ma continuamente riproponiamo, no, questo messaggio che alla fine secondo me diventerà, no, preventivo e terapeutico, tra virgolette. Sì. Sai Nicoletta, se posso dire, la professoressa Confalonieri ha ben spiegato e ha ben sottolineato quale sia l'importanza delle parole. Se dovessimo tornare al famoso mottetto di Nanni Moretti, le parole hanno un peso, devono essere pesate, bisogna che fondamentalmente quando si va a parlare con le persone si abbia un significato e si abbia coscienza del significato che le parole hanno, sia nel loro appunto contenuto intrinseco che a mio avviso nel modo in cui vengono poi articolate e non bisogna mai aver paura di parlare troppo se quello che si va a dire, soprattutto in un'epoca importante come quella puberale o postpuberale, fondamentalmente le parole che si vanno a dire sono relative a contenuti di salute e di prevenzione della salute. Tu prima facevi giustamente cenno al fatto che siano incrementate, non solo non diminuite o scomparse, ma addirittura incrementate le infezioni contratte durante i rapporti, e questo è dato di scienza, è dato epidemiologico. L'epidemiologia è quella parte della scienza che si occupa di stabilire i nuovi casi o la persistenza dei casi di malattia in un determinato contesto. E è certo che ci siano numerose malattie che pensavamo essere, non dico scomparse, ma quantomeno molto meno rappresentate, ad oggi ampiamente rappresentate invece. La più banale, nella letteratura del secolo scorso si parlava talvolta di scolo, qualcuno di voi forse se lo ricorda pure, si pensava fosse completamente scomparso avendo chiuso le case chiuse in Italia, e purtroppo non è così, perché la Neisseria gonorrea, che è la base dello scolo stesso, è un'infezione ampiamente rappresentata e sempre più rappresentata anche nelle persone giovani, etero-omosessuali che siano. Ci sono numerosissimi casi di infezioni da clamidia, da tricomonas, da aureaplasma, che sono germi difficili da trovare, ma che trasmessi prevalentemente con i rapporti sessuali non protetti, che hanno un impatto deleterio su quello che sarà poi la capacità genitoriale dei nostri figlioli. E perché riducono, mettono a rischio anche la fertilità. Enormemente. Molto spesso, peraltro, non vengono individuati con dei normali esami culturali, cioè se io prendo le urine e lo sperma piuttosto che, non vado a riconoscere immediatamente questi germi, devono essere ricercati, e questo rende ancora più difficile. Soprattutto in un ragazzo giovane magari il non si cercano, invece ci sono. Allora, se noi quindi volessimo sinteticamente dare ai genitori all'ascolto tre parole chiave o i messaggi per arrivare ai ragazzi, che cosa? La prima cosa che mi verrebbe da suggerire è di parlargli. La professoressa ne ha parlato bene, il gioco di parole, ma è fondamentale non aver mai paura di considerare i ragazzi sufficientemente piccoli, ma allo stesso tempo sufficientemente maturi perché i contenuti di prevenzione della salute vengano ad essere veicolati nel modo corretto. Soprattutto in questo periodo dove per vari motivi gli ormoni salgono, è più facile che durante i periodi estivi ci siano gli amori estivi, appunto, è sempre importante nei maschi suggerire l'utilizzo del profilattico come metodica di prevenzione della salute, che è fondamentale perché per vari motivi. In secondo luogo, la promiscuità dei rapporti. Purtroppo questo ad oggi è estremamente frequente, ma la promiscuità è l'attrice di potenziali infezioni più frequenti da un lato e enormemente più dannose dall'altro. Non abbiamo parlato prima di HPV, del virus del papilloma, ma è certo che la promiscuità dei rapporti e la precocità con cui i primi rapporti siano stati fatti siano alla base di una maggior probabilità di contrazione del virus e della sua successiva aggressività, sia nelle sue forme benigne, tra virgolette, che in quelle molto più pericolose, che sono forme maligne. Quindi parlare, prevenzione tramite il profilattico, ridurre il rischio di. Il terzo elemento che non vorrei mai trascurare è che infezioni tipo il virus del papilloma sono molto più aggressivi laddove ci sia ad esempio un'abitudine corretta al fumo di sigaretta, che è sempre più presente proprio nelle fasce giovanili. Generazionalmente giovanili. Noi abbiamo tante volte stressato quanto il fumo nelle ragazze che usano la pillola anticoncezionale. Il fumo va sempre male, però ci sia una relazione molto stretta, una relazione pericolosa, ma bisogna anche sottolineare questa per i ragazzi. È fondamentale, tutti i dati di scienza ci dicono che siccome il virus del papilloma è ad esempio un virus associato al rischio di tumori del pene, tumori dell'ano, tumore del cavo orale, anche nei ragazzi, tanto maggiore la promiscuità e tanto più frequente l'uso del fumo di sigaretta, tanto maggiore questi tumori saranno rappresentati ed aggressivi. Quindi lo smettere tanto prima diventa ancora più importante. È importante sottolineare che spesso noi associamo l'idea del papilloma virus, che tra l'altro è una grande famiglia, non dobbiamo farci confondere dal nome, ai problemi che può dare alla donna e quindi a un aumentato rischio del tumore del collo dell'utero. In realtà, come Andrea sottolineava, il papilloma virus non fa preferenze e può minacciare in modo serio anche la salute dell'uomo. Per questo in Italia che la vaccinazione era partita dalle bambine, ma attualmente in 9 regioni italiane viene effettuata anche per i maschi. Tra poco, così lanciamo questa notizia agli ascoltatori, Andrea, sarà disponibile il vaccino nonovalente, che rappresenta un'evoluzione dei due vaccini precedenti e porterà, quindi sarà una delle, dei benefici anche alla popolazione enormi. Maschile. Ed è proprio così, guarda Nicoletta, è importante saperlo. Il virus, giustamente come dicevi tu, passa sotto il termine di virus del papilloma, ma sono almeno 100 sierotipi diversi che sono stati suddivisi per la loro aggressività in virus a basso potenziale oncogeno, cioè di promuovere tumori, e ad alto potenziale oncogeno, quindi ad elevato rischio di promuovere tumori. I più frequenti a basso rischio sono due, quelli che si chiamano 6 e 11. Sono perché non hanno un nome ma dei numeri. I ricercatori licenziati li chiamano coi numeri. Esatto, 6 e 11 sono i due numeri relativi alla probabilità che compaiano quelli che si chiamano condilomi, quelle escrescenze sul pene, generalmente nel maschio, a livello dei genitali esterni e interni delle ragazze, ma che nel maschio possono comparire, come pure nella donna, ma a livello anche del canale anale, e non solo nei ragazzi con orientamento omosessuale, perché il 13% degli eterosessuali ha condilomi anche a livello del canale anale. La trasmissione solo sessuale, Andrea, così che rispondiamo, è prevalentemente sessuale? È prevalentemente sessuale. Da un punto di vista pratico, però, accanto a quello ci sono quelli più aggressivi. I più aggressivi che i precedenti vaccini coprivano erano il 16 e il 18, e quindi i vaccini quadrivalenti coprivano questi quattro ceppi, 6, 11, 16, 18. Ora, l'avere un nuovo vaccino importante perché copre altri 5 sierotipi, i numeri possiamo anche dire sono il 31, il 33, il 45, il 52, sì, il 58. A sentire così sembrano le estrazioni del lotto, in esatto, realtà sono poco dei... Esatto, significato, però ti dico solo che ci sono almeno due grandi dati di scienza. In Francia e negli Stati Uniti è stato stimato che la possibilità di aumentare fino a 9 ceppi la prevenzione induce un aumento della prevenzione di quasi il 45% in più solo sui tumori del pene, il che è un dato straordinario, cioè andare a far prevenzione riducendo di quasi il 50%, più di quanto già non fossimo capaci prima, il rischio di un tumore al pene, che è un tumore estremamente aggressivo, secondo me è un dato di scienza straordinario. E con questa notizia, poi torneremo naturalmente a parlare anche del vaccino che non è, arriverà nel ottobre e novembre nelle farmacie, quindi non, non andate a cercarlo adesso, ma torneremo sicuramente a parlarne. Grazie Andrea D'Anzalogna per essere stato con noi, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie a noi che siamo sempre qua, puntuali a tenervi compagnia. E torniamo domani. Assolutamente. Buona giornata a tutti.